精华，声系天下。北京人民广播电台公益广告。 我是导盲犬，我不叫不闹不咬人，我是盲人的眼睛，请大家允许我出现在公共场合。当您遇到我时，请不要呼唤，不要拒绝，不要抚摸，不要喂食。 同在蓝天下，共有一个家。包容导盲犬，关爱盲人。带您遨游缤纷多彩的 CD 世界，带您畅享音乐的盛宴。北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天7点19点播出 CD 博览。 欢迎收听 CD 博览，请欣赏 DG 唱片公司2008年为墨西哥男高音歌唱家维拉纵出版的首张独唱专辑。专辑以庞吉耶利的歌剧《歌女乔康塔》中的著名咏叹调《天空和海洋》为标题，曲目除了专辑同名曲和一些大家熟悉的威尔蒂、多尼采蒂等作曲家的著名歌剧咏叹调以外，还有齐拉亚的歌剧《安德里安娜》、莱科夫鹿尔中的选段，博伊托的歌剧《梅菲斯托菲尔》中的咏叹调等，由丹尼尔·卡莱加利指挥威尔蒂交响乐团伴奏。 Oh! La dea di tutti i cor, ed ella la mia sovrana, e fino ad primo ardor il mio nogliana. cuore s'assonnano i placido oblio. Mi ferme soltanto l'amore dell'uomo, l'amore di Dio. Ai campi, ai prati, ritorno e verso l'Evangeli sento attratto. Essere morta. mio, mio fedel, già ti due Dio, fra immi, o oh mio fedel, al desiato amante, stende la mano al ciel, vien, vien, a sello sei, fra gli angeli, o tenia mia, Pietà! cielo pietoso rendina, rendina questo cuore, ora siccome l'angelo che venia al suo pudore, ma se una nuova impura tanto candor la suda, viva di sua virtù, di sua virtù, riva di sua virtù. Priva di sue virtù, che non la vegga, io non la vegga più, io non la vegga più. Priva di sue virtù. Venero e l'aura che io respiro, indegna, ella invitava il traditor, non mente no Callistene, io stesso vidi, è un brando, un pugnal non avea. Fumacchiato l'onor mio, necessaria è la vendetta, necessaria è la vendetta. Sparverà di sangue nel rifo, la mia destra punitrice. Cordai vedo il perverso infido, strappargli il cuore dal petto, il perverso, il perverso infido, alla mai l'immenso affetto, ora immenso il mio furor, ora immenso il mio furor. e voi ne arco a signor e ben Giuseppe Arco fu trascinato ai nove Eterna Dio, essendo in gran periglio stanno i fratelli, ed io, ed io, essa fatal presidio degli compita mai la giusta e terribil vendetta per quel vil Brunolo bianca tu vendicata hai esaurati dal tempio in sul mattin poche note per te cara affidai quando più rivederti stanca e la meta è lontana padre, il padre mio. Aie, domani forse spento per me. Il fiume a Siro perché mi grasse, volente gli arriva una mano crudel. Perché se quando io pur non fui tra le crollanti mura del tempio scellerà. Supremo savia legge poté surgano a mille denti e gregge e case santa poesia e l'ultimo bisogno dell'esistenza mia, dell'esistenza mia. Odio che questo sogno sia la santa amo lei, e in eterno senza lei sarebbe il ciel, sarebbe il ciel per me, sarebbe il ciel per me, anzi in eterno senza lei sarebbe il ciel. Sarebbe il ciel.